passata. Spero tanto tu non sia ritornato, fantasma dei 13 castelli che distruggi le notti appassionate e corrono le lepri già impaurite, mentre io sto fermo steso al suolo e corrono le ore della notte e le mie certezze sono svanite. Signora, che proteggi i miei segreti, ti scongiuro torna presto. Signora, che riscaldi le mie notti, non cessare di esistere per me. Brigante d'assassino per le strade, io rivolgo una preghiera a te. Pirata già affogato in una vita, non vorrei dover morire anche per te. E mentre il sole brilla dolcemente, sciogliendo questa notte impolverata, le nuvole ricoprono i pensieri e ti aspetto in questa landa desolata. Signora, che mi hai visto che piangevo, non avere paura di me. Signora, che signora non sei ancora, forse un giorno mi comprenderai, forse mai mi comprenderai, forse mai.